the market square. So many mothers sighing. News had just come over. We had 5 years left crying. News guy wept and told us Earth was really dying. Cried so much his face was wet. Then I knew he was not lying. I heard telephones, opera house, favorite melodies, soft boys, toys, electric irons and TVs. My brain hurt like a warehouse. It had no room to spare. I had to cram so many things to store everything in there. And all the fat skinny people, and all the tall short people, and all the nobody people, and all the somebody people. I never thought I'd need so many people. Girl my age went off ahead, hit some tiny children. If the black hadn't pulled her off, I think she would have killed them. A soldier with a broken arm fixed his death to the wheels of a Cadillac. Cop knelt and kissed the feet of a priest, and a queer threw up the side of that. I think I saw you in an ice cream parlor, drinking milkshakes cold and long, smiling and waving and looking so fine. Don't think you knew you were in the song. And it was cold and it rained, so I felt like an actor. And I thought of Ma, and I wanted to get back there. Your face, your race, the way that you talk. I kiss you, you're beautiful. I want you to walk. We got 5 years stuck on by. 5 years, what a surprise. We've got 5 years. My brain hurts a lot. 5 years, that's all we got. We've got 5 years. Non vedete le orecchie, cose, tengo tutto cose. Un animale? Se sono un animale, devo salire. E che animale sareste? Cioè, sono un gufo. Già si sanno. Già ci stanno. No, no, no, no, ho detto un gufo. No, sono una tigre. Sono arrivata. Un cerbiatto. Ci stanno. Un rinoceronte. Ci sono. Un minollo.

E la diretta di oggi, siccome non so voi, io inizio a essere un po' satura di informazioni sulla situazione attuale, sul coronavirus, sull'emergenza, ovviamente non è che si può prescindere da questo, però ecco, non so come dire, ma io inizio a essere un po' satura e quindi la diretta di oggi non tratterà di, quantomeno non nel dettaglio, di grandi, non lo so, di grandi informazioni su questo virus, sul contagio, sulla situazione, su quanto siamo reclusi, decreti, bla bla bla. Parleremo invece di Apocalisse, perché insomma, comunque sia, mi sembrava di rimanere in tema. Apocalisse però ne parleremo, state tranquilli, non andate a suicidarvi immediatamente, ne parleremo in termini, spero, abbastanza interessanti e dovrebbero un po' aprirci un po' dei mondi anziché chiuderceli, perché come vedremo l'Apocalisse in realtà è un po', a seconda di come la si guarda, può essere anche foriera di spunti di immaginazione e di mondi nuovi da immaginare, da sognare, ecco. Quindi ci aggireremo in biblioteche, videoteche sconfinate, chiamiamole così, per perlustrare come l'essere umano ha temuto o sognato anche una catastrofe da cui poi però ripartire. Quindi guarderemo qualche guarderemo, no, perché attraverso la radio è difficile farlo, ma insomma racconteremo di qualche film che, come saprete insomma meglio di me, ce ne sono circa 7 miliardi di film che parlano di questo tema, e anche andremo a indagare libri, romanzi, racconti, fumetti, anche anime che hanno parlato di questo tema e ne hanno parlato in maniera interessante, o vedremo anche qualcuno che ne ha parlato in maniera pessima e deprecabile, purtroppo questi ultimi sono di più, ecco, sì, sono la maggioranza, ma vabbè. Quindi prima però vi devo dare un po' di comunicazioni così importanti, anche perché magari adesso siete attenti e attente, poi dopo vi addormentate o vi perdete nelle mie parole e nella musica e poi vi distraete o andate a preparare la cena, non lo so. Quindi vi do un po' di comunicazioni però invece importanti, e cominciare dalla prima, che è una buona notizia, finalmente, io direi che ne abbiamo bisogno. E un'ottima notizia è la conferma arrivata della possibilità di fare il mercato contadino il venerdì dalle 15.30 alle 20, il consueto mercato contadino che normalmente si tiene in Piazza Tasso, questa volta cambia location, questo venerdì sarà in Piazza del Carmine per questioni essenzialmente, mi sento di poter dire, assurdamente burocratiche, purtroppo lo stiamo vivendo sulla nostra pelle, il confine tra norme che possiamo tranquillamente considerare giuste e norme abbastanza deliranti. Ecco, per una di queste Piazza Tasso viene considerato un giardino, e quindi si sa che i giardini sono forieri di male. Le piazze no, ai supermercati ancora di meno, quindi come i supermercati restano aperti Dio non voglia, i giardini invece devono rimanere chiusi, ma le piazze come Piazza del Carmine invece possono rimanere aperte, e ci mancherebbe, e quindi ci può venir fatto il mercato contadino. Quindi Piazza del Carmine ospiterà il mercato contadino questo venerdì, vi ricordo, dalle 15.30 alle 20. È una piazza, come sapete, piuttosto grande, sicuramente molto più grande e quindi molto più sicura di un centro commerciale o di una fabbrica, ma non apriamo questo argomento perché sennò si apre un tombino, e avevo detto che non ne volevo parlare. E quindi la piazza è grande, verranno ovviamente rispettate le norme sanitarie, le distanze e tutto quanto, ci teniamo e ci tengono le persone che tengono il mercato quanto voi, quindi mi raccomando, è importante in questo momento anche prendersi cura di se stesso mangiando cose buone, non le schifezze della produzione commerciale, insomma, della grande filiera, e invece è importante anche aiutare oltretutto il giro di Genuino Clandestino e comunque le realtà contadine auto-organizzate. Quindi, insomma, vi ricordo questo appuntamento e andate a fare la spesa. A voi che state nel comune di Firenze, che vi è consentito, andate in Piazza del Carmine venerdì alle 15.30 al mercato. Allora, dicevamo, questa era la prima comunicazione. L'altra comunicazione che vi volevo dare riguarda invece la programmazione di Radio Wombat. Ovviamente l'avrete visto, abbiamo un palinsesto speciale che sta iniziando a diventare un po'... ha preso un po' il ritmo, è un po' meno deciso di giorno in giorno, insomma, quindi avrete visto, cioè, tutta la settimana, chiaramente ci sono un po' di inconvenienti tecnici che potrete immaginare, di difficoltà, per cui non sempre rispettiamo al millimetro questo palinsesto, ce lo perdonerete, ma in ogni caso, insomma, ci proviamo e potete fare riferimento al palinsesto. Avete sentito prima di me l'Accademia della Brusca, ahimè purtroppo in replica, ve ne sarete accorti, ma ci promettono le bruschette nuove mirabolanti avventure per la prossima settimana. E dopo di me invece andrà avanti in onda dalle 21:15, 21:15, 8 Hertz, e a seguire i racconti di Quasi Mezzanotte, che alle 23, come tutti i giorni, accolgono una lettura per darvi un po' la buonanotte e tenervi compagnia. Questa volta, finora ci siamo ascoltati, gli scorsi tre giorni abbiamo ascoltato La Peste Scarlatta in puntate, La Peste Scarlatta di Jack London, quanto mai azzeccata direi la scelta, e ieri ci siamo ascoltati la terza puntata e andremo avanti nei prossimi giorni, ma oggi invece Tasso leggerà Lager Italia e sarà la lettura di stasera. Poi vi ricordo anche che uno speciale che stiamo mandando in onda, uno speciale di Radio Onda Rossa, che ci siamo sentite di rimandare in onda anche dalle nostre frequenze, purtroppo no perché sono un po' down, ve ne sarete accorti, ma insomma perlomeno via streaming, uno speciale con un'intervista a Ernesto Burgio, medico pediatra esperto di epigenetica e biologia molecolare, e un sacco di altre qualifiche che ora non vi sto ad elencare, ma insomma un contributo moltissimo cioè molto molto interessante secondo me, e soprattutto devo dire, almeno questa è la mia opinione, chiarissimo, che secondo io vi consiglio di ascoltarlo, perché in questo momento di caos totale informativo, dove veramente ognuno deve dire un po' la sua, e chiunque abbia un camice, anche se è un dentista, comunque viene visto come un guru e come un sacerdote che ci dispensa verità, non so voi, io mi sentivo piuttosto spersa e anche un po' impaurita da tutte queste informazioni contrastanti. Invece questa secondo me è un'ottima fonte, molto chiara, che fa luce su un sacco di punti, e mi sento di poter dire che mette un po' di punti fermi, e quindi io me ne sento rassicurata, non perché insomma sia particolarmente allegro o ottimista, la situazione è seria e lui lo ribadisce molto chiaramente, ma insomma con la sua chiarezza e il suo approfondimento da un punto di vista medico e scientifico, insomma, quantomeno a me mi ha fatto sentire assicurata, perché mi ha dato la sensazione che quindi però non è che stiamo proprio andando a caso, ecco, almeno qualcuno in giro che sa che cosa sta succedendo c'è, che poi magari sia un po' poco ascoltato, ecco, questo sarebbe un altro discorso, ma vabbè. E questo è quanto. Questo speciale di cui vi parlavo è andato già in diretta mercoledì scorso e lo rimanderemo domani alle 10.30 di mattina, dura 1:45, un po' lunghetto, ma ve lo consiglio ugualmente. E poi lo ritroverete anche nel podcast, perché secondo me, insomma, vale un po' la pena che se non ve lo siete perso in diretta, insomma, dovete avere la possibilità di andarvelo a riagguantare. Detto ciò, prima di iniziare a tuffarci in questa diretta dove raccontiamo un po' l'Apocalisse, vi metto un altro po' di musica, così non vi devasto e non vi inondo troppo delle mie parole. It seems to know no one. The odds are favorite. The seeds for everyone. It's a random circle. Random cows in line. I've got my honor. It's a hideous compromise. Eccoci qua. Dunque, parlavamo di Apocalisse prima di perderci nelle informazioni pratiche. Ora, l'Apocalisse può sembrare, come dicevamo, un argomento un tantino deprimente, mi rendo conto, soprattutto di questi chiari di luna, eppure se ci pensiamo bene è anche molto prolifico. Non so, io magari voi siete meno nerd di me e avete una vita più normale, però chi di noi ha letto fiumi di libri di fantascienza o divorato film apocalittici? Adesso si trova però con un vantaggio, perché ha un allenamento all'immaginazione e all'ipotesi anche, che manca invece a chi è rimasto sempre ancorato alla realtà, chi sta sempre un po' a guardarsi intorno e basta, nel mondo reale. Non è detto che poi però la realtà di colpo non si trasformi in un libro di fantascienza. E lì... noi nerd sognatori di colpo, ecco, abbiamo acquistato un vantaggio, ci ritroviamo di nuovo in vantaggio, non ci prendete più per il culo, ecco, adesso, perché noi potevamo dire un ve l'avevamo detto grosso così, o perlomeno siamo minimamente insomma che un po' sappiamo come muoverci. No, non è vero, non sappiamo come muoverci moltissimo, ma quantomeno qualche scenario l'avevamo già visto. Ecco, probabilmente, insomma, l'apocalisse immaginare un'apocalisse, la fine del mondo, o perlomeno una catastrofe, ecco, è un esercizio utile proprio per, appunto, non farsi poi trovare impreparati di fronte a un'emergenza collettiva improvvisa come può essere quella di adesso, ma può anche essere uno strumento di emancipazione dalla realtà in cui sembriamo essere confinati. Cioè, spessissimo vi sarete probabilmente resi conto che siamo un po', come dire, bloccati quasi nella realtà in cui viviamo, che sicuramente non è foriera di grandi meraviglie e bellezze, ma anzi tende a deprimerci spesso, e questo ci frena un po' l'entusiasmo anche nell'immaginare nuove possibilità, nuovi mondi e nuovi sbocchi, ecco, perché se ci guardiamo intorno non è che proprio ci venga da ridere. Quindi tendiamo un po' probabilmente a rimanere coi piedi in terra e lo sguardo basso. Ecco, invece, almeno io penso questo, nella letteratura fantastica, quando si parla di apocalisse è come se si avesse un po' un patentino per poter ricominciare da capo, immaginarsi un nuovo mondo adesso, in questo frangente, adesso proprio in questo frangente qui di questi giorni, magari sì, diciamo, non in mezzo a un'emergenza del genere, ma nella vita quotidiana di tutti i giorni, mentre andiamo al lavoro e tutto quanto, sembra essere un po' troppo folle, troppo azzardato. Invece se abbiamo il lasciapassare della fantasia e dell'immaginazione, noi mettiamo le mani avanti, ma stiamo facendo narrativa, si fa per parlare, mica si dice per davvero, a quel punto siamo un po' autorizzati a sognare e a immaginare cose. Questo secondo me è molto interessante, perché appunto ci dà la possibilità di insomma, fare cose che nella vita di tutti i giorni forse ci sentivamo timidi, ecco, dal fare. Quindi, forse è anche per questo che sono stati scritti fiume di parole e girati chilometri di pellicola su questo tema. Lo saprete, ve ne sarete insomma, l'avrete visto molto più di me. E iniziamo a raccontarli partendo da quello che viene da molti considerato il primo romanzo apocalittico, ovvero L'ultimo uomo. Il titolo originale è The Last Man di Mary Shelley, pubblicato nel 1826. Allora, io devo confessarvi che, nonostante io sia veramente una fan sfegatata, un amante del mondo di Mary Shelley, più ancora devo dirvi di quello di Percy Shelley, ma vabbè, vi devo confessare che ho fatto molta fatica a leggere questo libro. È un intriso del modo di narrare un po' tipico di quell'epoca, con dei ritmi a cui io personalmente non sono più abituata dopo anni di velocità cyberpunk. Tutte queste descrizioni lunghissime e questo ritmo molto introspettivo mi ha un po' ucciso. Però, nonostante ciò, insomma, se si ha la pazienza di andare avanti, è un bellissimo e interessantissimo romanzo, che narra sì di un'apocalisse, ma c'è, come vi dicevo, questo interesse all'inizio lunghissimo, una lunghissima prima parte, che è rivolta principalmente ai moti psicologici interni ai suoi personaggi, molto autobiografici in realtà, e sembra proprio un pretesto per una sorta di diario intimo delle peripezie di due uomini in particolare centrali nella vita di Mary Shelley: Percy Shelley e Lord Byron. Quindi c'è tutta una prima parte che un po' è appunto un po' introspettiva in realtà. Poi a un certo punto però decolla e inizia a sviluppare questo tracollo del mondo, che lo vedremo, insomma, porta alla scomparsa dell'umanità, tant'è che appunto questo romanzo si chiama non a caso L'ultimo uomo. Vi faccio notare che gran parte dei romanzi e racconti gotici di inizio 800, scusate, vengono immaginati in un momento storico ben preciso. L'anno senza estate veniva chiamato, il 1816, un anno durante il quale ci furono delle gravi, enormi anomalie al clima estivo, che distrussero i raccolti in diversi stati, sia nell'Europa settentrionale, negli stati americani nel nord-est, nel Canada orientale. Ora, in realtà, all'inizio, mentre avvenivano, non si avevano molti strumenti anche per capire che cosa stesse succedendo, quindi vi lascio immaginare lo sconforto e la confusione, probabilmente ben maggiore rispetto a quella che abbiamo adesso. E adesso si può dire, si ritiene che le aberrazioni, veniamo chiamate così, climatiche, gli sconvolgimenti climatici, furono causati da un'eruzione vulcanica di questo supervulcano, il Tambora, nell'isola di Sumbawa, nell'attuale Indonesia, che avvenne tra il 5 e il 15 aprile del 1815. Questa eruzione di appunto questo supervulcano, quindi un'eruzione non da poco, non immaginatevi, ecco, il Vesuvio, un'eruzione che mise grandi quantità di cenere vulcanica negli strati superiori dell'atmosfera e questa cosa provocò moltissimi effetti a catena. Intanto la temperatura globale si abbassò perché la luce solare faticava a attraversare l'atmosfera, quindi non riusciva a riscaldare la crosta terrestre. In più questi fenomeni, perché la sfiga non viene mai da sola e piove sul bagnato, questi fenomeni si erano sovrapposti a un periodo chiamato il minimo di Dalton, durante il quale il sole pare emanasse meno energia, fosse un po' di suo, meno riscaldasse di meno. E ancora, sempre nello stesso periodo, era ancora in corso quella che poi adesso viene chiamata la piccola era glaciale, che era un periodo di raffreddamento generale del pianeta che era iniziato nel Medioevo e si protrasse fino al 1850. Quindi insomma una serie di sfighe a catena. Pare che questa enorme eruzione vulcanica causò anche uno spostamento dell'asse terrestre, insomma un piccolo evento, piccolo insomma, ma insomma un evento che da solo causò un delirio, un disastro. E una dei risultati più ovvi per chi le osservava, per gli esseri umani che osservavano questi fenomeni, era che il cielo era nero, era sempre nero, cupo, e non si vedeva mai il sole. Per questo venne chiamata l'anno senza estate. Le ripercussioni sui raccolti ve le potete immaginare, ma attenzione, piccolo dato che però butto lì nel calderone: la mancanza di foraggio, per dire, ispirò Carl Drais a cercare nuovi modi di trasporto senza cavalli, perché chiaramente il trasporto che andava per la maggiore in quel momento, è forse l'unico a parte i piedi, era il cavallo, e non essendoci foraggio era un grosso problema, e Carl Drais inventò, sotto appunto stimolato da questa emergenza, l'invenzione della draisina, detta anche dandy horse o velocipede, ovvero la bicicletta. Quindi in questo contesto, in questo clima per certi versi cupissimo e molto spaventoso, e insomma che aveva probabilmente insomma terrorizzava gli esseri umani nel profondo, però in questo clima anche in qualche modo forse anche di reazione, di fermento, dove evidentemente dovevi far ricorso a delle energie e degli strumenti fuori dal comune per mantenere un minimo di equilibrio e farcele sopravvivere. Ecco, in questo contesto, in questo clima, nasce Frankenstein, nella famosa notte in cui per gioco nacque Frankenstein dall'immaginazione di Mary Shelley, insieme a John Polidori, Lord Byron e Percy Shelley, che tutti insieme chiusi in una casa per gioco inventarono racconti del terrore. Ecco, erano chiusi in questa casa perché a luglio stava nevicando, perché era un periodo in cui in quel luglio nevicava di continuo, giusto per, no? Ecco, Frankenstein e gran parte della prima letteratura gotica viene ideato in quel momento, e questo ovviamente non è a caso. Il romanzo di cui però stavamo parlando, ovvero L'ultimo uomo, è collocato intorno al 2092 più o meno, e narra della fine dell'umanità a causa della peste. Quindi siamo sul pezzo. Non sto qui a raccontarvi la storia, ma ci sono alcuni elementi interessanti che ci possono dare da riflettere. Ve li butto lì. Intanto, uno dei personaggi principali fugge preso dal panico verso settentrione, per poi morire solo in mezzo a una scorta di viveri. E questo, ricordiamocelo, uno degli eroi, tra l'altro, quello più marziale. Quello non era quello più eroico. Quello più eroico invece, che è un protagonista invece più guerriero, si butta nella battaglia col sole in faccia, un po' l'Achille della situazione, no? Niente, muore molto in fretta, è uno dei primi che muoiono. Il protagonista meno marziale, più apollineo, invece organizza i superstiti e sarà un po', diciamo, il fulcro del nucleo di esseri umani che riescono a sopravvivere più a lungo. poi c'è una setta religiosa, che, perché chiaramente nei racconti di fantascienza che parlano di apocalisse e fine del mondo c'è sempre una setta religiosa, c'è sempre di mezzo la religione, lo vedremo anche nel corso di questa diretta, la citeremo spesso. Ecco, e anche qua c'è una setta religiosa che cerca di monopolizzare le speranze della gente manipolando e nascondendo la realtà delle cose. E poi, ultimo elemento, alla fine interviene sempre il caso o il caos a scompigliare tutte le carte. Funzionava così. Questi sono un po' di primi stimoli che ci vengono dalla letteratura, in particolare da Mary Shelley. Metterei un po' di musica, così mi riposo un attimo e anche voi. Conto che non vi ho detto quali pezzi musicali stavo mandando. Abbiamo iniziato con Five Years di David Bowie, perché scusate, ma mi sembra incredibile che non abbia risuonato nelle vostre orecchie tipo dall'inizio di questa situazione, perché ecco, lui proprio ci poteva avere un ve l'avevo detto grosso, così ancora più di noi nerd. E poi abbiamo ascoltato King Buzzo con Useless King of the Punks, e invece quest'ultimo brano era Luna Park di Martha and the Muffins. E poi mi sono anche dimenticata di dirvi che ci sono molti modi per comunicare con Radio Wombat. Uno di questi è quello classico, la casella di posta. posta wombat@insiberia.net, a cui tra l'altro vi sproniamo, mandateci a questa casella di posta potete mandare i vostri contributi audio che stiamo raccogliendo e che devo dire in maniera meravigliosa ci rende veramente felici, ci stanno arrivando quasi quotidianamente e tutti bellissimi tra l'altro. E quindi insomma mandateci i vostri contributi a audio, letture, playlist, interventi su quello che è la vostra quarantena, un po' di tutto, ecco. E ci sono altri modi però con cui interagire con noi, che modi che abbiamo messo in fretta e furia su per questa occasione. Uno è il nostro pad, che trovate, l'indirizzo lo trovate sul sito wombat.noblogs.org, dal quale probabilmente ci state ascoltando, ecco, e lì nell'articolo principale in home page, dove peraltro c'è anche il link per l'insesso speciale, lì trovate il link di questo pad dove possiamo interagire con voi durante le dirette. Altro modo per comunicare con noi è la nostra messaggeria vocale. Abbiamo messo su una messaggeria dove potete registrare degli interventi audio e mandarceli in maniera ovviamente anonima, e tutti questi strumenti che stiamo utilizzando sono strumenti rispettosi della vostra privacy e non commerciali e autogestiti, e la messaggeria fa parte di uno di questi. E insomma ci sono molti metodi, e proprio sul pad leggo un po' di contributi che iniziano ad arrivarci. Intanto ci si lamenta sulle piazze cementificate e giustamente appoggio assolutamente, ma devo dire che in questo caso Piazza del Carmine sì, è una piazza cementificata, ma con il mercato contadino almeno una volta a settimana probabilmente respirerà un po'. Quindi infatti anche lì io direi ai contadini del mercato di non esagerare con le verdure, perché non vorrei che poi Nardella, vedendo tutto sto verde in Piazza del Carmine, dicesse oddio, ma non è che allora magari è un parco? Perché se è un parco, no, va chiuso, Quindi occhio, non portatevi neanche troppa acqua, se no poi lo scambia per un fontanello. Meglio che Piazza del Carmine venga considerata una piazza di cemento, meglio così. Anzi, deve assomigliare un po' a un supermercato, ecco, se possibile. E poi mi consigliano un'altra cosa molto giusta, che è l'Eternauta, certamente. Ma infatti il problema di fare uno speciale sull'Apocalisse dal punto di vista letterario è che chiaramente si apre un mondo, la fine del mondo. Ci sono miliardi di libri e film che sicuramente, o fumetti, che io sicuramente non citerò neanche, perché sennò veramente altro che 2 ore, dovevamo stare insieme per 6 giorni. Cosa che peraltro si potrebbe fare, ma non adesso, ecco. E l'Eternauta ovviamente era uno di questi. Tra l'altro devo confessarvi che quando ieri a un certo punto ho messo il naso fuori di casa, non voglia, cioè il naso e comunque sempre a distanza, però fuori ho visto che nevicava, il mio primo pensiero, ve lo giuro, è stato l'Eternauta. Cioè ho detto, ok, ci siamo, questa è neve atomica, è andata, perché era evidente. Poi pare che insomma non era neve assassina, che invece poi si è sciolta, pare che fosse neve vera, vabbè, sì, non sono ancora molto convinta, cioè secondo me ci sta che comunque fosse neve nucleare, però vabbè, in ogni caso l'Eternauta sicuramente fa parte di questa lista. Un fumetto meraviglioso che insomma, come molta di questa letteratura, non parla soltanto dei fatti di cui poi va a raccontare, ma in realtà sono modi per raccontare poi in particolare lì si parlava dell'Argentina e della situazione in realtà non futura ma di quella molto attuale, e quindi insomma diciamo che questo lo accomuna a moltissima altra letteratura apocalittica. Proseguiamo però con insomma, tutta questa miriade di materiale, una delle altre cose che ho scelto è un film, in particolare un film che in italiano è tradotto in maniera abbastanza, come spesso avviene, abbastanza da macellai, 2022 I sopravvissuti, ma il titolo originale è Soylent Green. Ci alleveranno come bestiame da macello fra poco. Tu devi dirlo, devi dirlo a tutti. Sì, te lo prometto. Andrò all'ente supremo. A tutti bisogna dirlo. Hai capito, Edge? Tutti devono saperlo. Dovete fermarli prima che sia troppo tardi! Dovete fermarli prima che sia troppo tardi! Prima che sia troppo tardi! Ecco, così, no? A farla prendere bene. Soylent Green, un film di fantascienza del 1973 con la regia di Richard Fleischer, ed è tratto dal romanzo distopico di Harry Harrison, Largo, Largo, del 1966. Era un decennio piuttosto prolifico da questo punto di vista, lo vedremo, insomma, gran parte della fantascienza si colloca intorno a quegli anni, non solo ovviamente, ma insomma in quel periodo c'era, è uscita un bel po' di belle, sono uscite un bel po' di belle cose. E qui invece la trama è importante, mentre nel caso dell'ultimo uomo di Mary Shelley abbiamo un po' buttato lì soltanto degli accenni e degli spunti, qui invece rimaniamo sul pezzo e rimaniamo ancorati alla trama. Anno 2022, quindi ci siamo, mancando anni, anno 2022. La Terra è devastata dall'inquinamento e dalla sovrappopolazione, farei puntini puntini. La natura non esiste quasi più e il clima è torrido. Le stagioni si sono ridotte a una perenne estate con oltre 30 gradi di temperatura. New York è un formicaio di 40 milioni di abitanti pressati in fatiscenti condomini. Il dominio tecnologico e il consumismo sono tramontati perché gli oggetti che hanno prodotto stanno cadendo a pezzi per mancanza di ricambi. Manca spesso la corrente elettrica, cibo e acqua sono razionati. Ok, ora fermiamoci un attimo. Alcune di queste cose sono decisamente augurabili, no? Cioè, non so se mi è parso solo a me, ma alcune di queste, non tutte, cioè magari effettivamente, non lo so, il clima torrido, l'inquinamento, no? Ok, ma la parte sul dominio tecnologico, i consumi, c'erano dei lati positivi secondo me in tutto questo. Però proprio il cibo è il problema maggiore dell'umanità. L'unica risorsa rimasta è il Soylent, che sono delle gallette nutritive di vari colori. E la pubblicità afferma che la materia prima di questo Soylent, in particolare del Soylent verde, Soylent Green, per l'appunto, è il plankton. E questo è l'ultimo prodotto di questa ditta Soylent, destinato a diventare il principale alimento della popolazione con l'inaridirsi della terra. Quindi altro che mercato contadino, qua abbiamo il Soylent Green che ci ammazza a noi. E con l'andare del film ci si renderà conto che nella miseria generale c'è chi continua a guadagnare e non poco. Ci si accorge che dietro a questo Soylent c'è qualcosa di strano. E qui non posso assolutamente più continuare, mi devo fermare, non posso più raccontarvi come va a finire perché altrimenti insomma faccio dei danni. Se ovviamente il riferimento diretto è a quelle tematiche che abbiamo citato, la sovrappopolazione mondiale, l'esaurimento delle scorte alimentari, però il filo del ragionamento in realtà è molto più sottile e politico, è un'umanità schiava di un nutrimento che le viene elargito da un'azienda, ma chi alimenta questo rapporto di schiavitù siamo proprio noi stessi. Innesso con, non lo so, certe aziende che si nutrono dei nostri dati mentre diventano il centro del nostro mondo, non potrebbe essere più chiaro. E eravamo, vi ricordo, nel 1966. Un altro po' di musica, questa volta ci affidiamo alle sapienti mani degli Against Me con, qui siamo proprio, come dire, ampiamente in tema, Armageddon. Good night, we lay back from Hoboken to LA, from Portland to Gainesville, from the Great Plains to Niagara, Route 66 straight to California. Electric lights carry the night. We move in far, far time, our feet on wheels and in the sky. Yes, we're going, cause we'd die if we'd stay here. And those dying dreams will carry what's good and real and pure. And the rest can burn in hell. And for the four-year-old girl found dead in a dumpster, shot by her mother, her eulogy is the sound of construction through head to head traffic. Today's just another day. Gone into the drunks and the liars that we've always hated. Every shortcoming has trapped us. Every mistake is now our own infinite failure. So steal every chance we get. Every advantage is taken when no one's looking. We live behind closed doors and we won't stop till we are. Till the very end, from Hoboken to LA, from Portland to Gainesville, from the Great Plains to Niagara, Route 66 straight to California. Electric lights carry the night. We move in far, far time, on our feet, on wheels, and in the sky. Yes, we're going, cause we'd die if we'd stay here. And those dying dreams will carry what's good and real and pure. And the rest can burn in hell. And the rest can burn in hell. Hell. Lo sapevate? Nostradamus aveva previsto che il mondo sarebbe finito nel 2000. A meno che non gli davano 2 milioni di dollari in biglietti di piccolo taglio. Ricatto astrologico su un Educational Channel. Ma perché gliel'hanno dato? E ti credo. Anche perché poi non è una cifra esagerata. 2 milioni di dollari per il mondo, secondo me fino a 5 poteva chiedere. Stavano zitti e pagavano. È stato modesto. Modestia archeologica su Educational Channel. Eccoci, Radio Wombat, sempre che vi tiene compagnia in questi tempi bui. Altra cosa che mi segnalano sul pod, che era una delle comunicazioni, come dire, tecniche, pratiche da farvi, che riguardano sempre la nostra programmazione speciale, è un altro speciale, appunto questa parola ormai è abusata, ovvero uno speciale su attivismo e cybersicurezza, uno speciale rapporto sul rapporto dei servizi segreti del 2019, e l'abbiamo mandato in onda stamattina e alle 11, ma se ve lo siete perso lo potete trovare intanto sul podcast, quindi sempre sul sito, lo potete ascoltare in ogni momento della giornata quando volete, ma se no, se siete collegati e collegate in diretta così sentendo la programmazione di tutti i giorni, alle 14.30 di sabato potete riascoltarvelo. Bene, ecco, ora, siccome abbiamo sorvolato il cyberpunk soltanto così, adesso infiliamoci dentro proprio con tutte le gambe. E ovviamente non potevo non citare Akira, un manga di genere cyberpunk che è stato realizzato da Katsushiro Otomo e si è realizzata dal 6 dicembre del 1982 all'11 giugno del 1990. E anche qua l'importante un po' la storia, quindi brutalmente Wikipedia ci racconta la trama, anche se veramente Wikipedia è sempre più scandalosa, ma vabbè. La storia è ambientata nell'anno 2019, quindi qua proprio l'abbiamo superata, nella megalopoli di Neo Tokyo, sorta sulle ceneri della città di Tokyo, che però è invece stata distrutta 30 anni prima da una misteriosa esplosione nucleare che ha scatenato la Terza Guerra Mondiale. Il governo esercita un controllo repressivo sulla città e compie esperimenti su alcuni bambini con poteri psichici latenti per potenziarli, sfruttando le loro predizioni per mantenere la pace. I protagonisti di questa vicenda sono Tetsuo e Kaneda, giovani membri di una banda di motociclisti. Questa cosa dei motociclisti, delle bande di motociclisti, ricorre in tantissima letteratura e soprattutto in film e non solo, insomma, che parlano di post-apocalissi. Il primo, Tetsuo, scoprirà di avere enormi poteri psichici e si trasformerà in una sorta di semidio folle, scatenando immani catastrofi per conquistare il potere assoluto. E l'altro protagonista con cui Tetsuo va subito in conflitto e inizia a lottare è il mitico Akira, un altro ragazzo che anni prima era stato come lui potenziato dagli esperimenti del governo. E che però non è così cattivo come Tetsuo. Kaneda, cioè insomma non è cattivo, Kaneda tenterà di opporsi a Tetsuo e di riportare la pace in un mondo dilaniato dall'odio e dalla follia. Allora, in fondo è il potere a distruggere tutto e a dilaniare il mondo. La tesi di fondo di Akira è abbastanza chiara. Non c'è solo questo, ma questo è un tema molto, molto presente. La questione del potere, appunto, è fondamentale dentro Akira, così come sarà fondamentale fonte di ispirazione per generazioni cyberpunk a venire, la riflessione invece sul rapporto tra uomo e tecnologia in Tetsuo, nome che ricorre non a caso, film del 1989 di Tsukamoto, che comporta un'apocalisse personale, ovvero la fusione tra il corpo e la macchina che porta alla scomparsa dell'uomo per come era stato finora. In questo caso è come se si fosse introiettata un'apocalisse. In entrambi i casi le apocalissi sono trasformazione, sono dei mutamenti che a seconda di come li affrontiamo ci possono devastare o tramutare in qualcosa di diverso e magari migliore. Tra l'altro questo è un assist perfetto per rimpiangere il fatto che al Next Emerson, non mi ricordo assolutamente più in quale giorno perché ho perso totalmente la nozione del tempo, forse sarebbe dovuto essere la settimana scorsa, non lo so, in ogni caso sarebbe dovuto esserci, era in programma per festeggiare l'anniversario di Tetsuo, per l'appunto del film, la proiezione di Tetsuo musicata dal vivo da un progetto bolognese e ahimè purtroppo causa emergenza e apocalisse questa serata è stata sospesa, ma spero vivamente che riusciranno a rifarla perché ci sarei insomma andata subitissimo. Quello che dice Otomo riguardo a Akira è chiarissimo. E c'è un'intervista in cui lui dice: volevo rievocare un Giappone come quello in cui ero cresciuto dopo la Seconda Guerra Mondiale, con un governo in difficoltà, un mondo in ricostruzione, pressioni politiche esterne, un futuro incerto e una banda di ragazzini abbandonati a se stessi che combattono la noia correndo con le moto. E beh, e quindi io direi che dopo tutto ciò, anche qua abbiamo bisogno un po' di una pausa. Io cerco di alternare un po' di musica in modo da non farvi suicidare, ma di suicidio parla questo pezzo, in effetti. Big in Japan, Suicide a Go-Go. Quanto mi piacciono i Big in Japan, mamma mia. E d'altra parte eravamo proprio in Giappone, quindi direi che senza assolutamente averci pensato, averlo fatto apposta, in effetti ci stava. Beh, sul pad fioccano le ovazioni per Tetsuo e Kaneda e sì, in effetti anche io potrei citarlo a memoria. E mi sembra che qua sul pad ci siano dei fan anche quantomeno, ecco. E ci sono anche dei rimpianti che condividono i miei per la serata dedicata a Tetsuo. Non vi preoccupate, infatti, tutto è solo rimandato e si spera anche di non troppo. Quindi a brevissimo potremo tornare a popolare i nostri spazi autogestiti, di cui sentiamo tutti e tutte la mancanza da morire, e potremo rivederci in carne ed ossa e fare quelle bellissime cose che facevamo fino ad adesso e che peraltro, insomma, continuiamo a fare, ma purtroppo separati fisicamente, ma attraverso strumenti come la radio, per esempio, riusciamo ancora a fare. Bene, ovviamente non poteva mancare un bello olocausto nucleare, un po' l'abbiamo buttata lì attraverso il contributo che la suggestione che ci suggerivano sull'Eternauta e anche peraltro Akira, ma ovviamente è uno dei temi preferiti, l'olocausto nucleare, quanti ce n'è? Ne prendo uno per tutti. Cronache dal dopobomba di Philip K. Dick, perché d'altra parte come si faceva a non invocare il maestro? 1963, Philip K. Dick è uno di quegli autori che ovviamente usavano anche la fantascienza per narrare e raccontare non soltanto scenari possibili, ma anche gli scenari attuali e spesso anche calandosi nell'interno, nello spazio interno delle singole persone, del singolo individuo, come per esempio anche Ballard, forse anche in parte più che Dick. L'apocalisse nucleare in particolare è un po' uno straccio in questo caso, che resetta le cose e rende più comprensibile la lettura della nascita di alcuni meccanismi sociali da cui ci troviamo governati. Cioè è come se a un certo punto certi meccanismi fossero talmente atavici, fossero talmente intricati, complessi, ci siamo talmente abituati che fosse anche più difficile. Probabilmente adesso è difficile andare a risalire come sono nati, perché, che cosa ha influito, da cosa dipendono. Ecco, l'apocalisse è una sorta appunto di reset in cui si può dire va bene, però se alcune cose ripartono e ricominciano e vanno a finire sempre lì, evidentemente abbiamo capito che sono o innate o comunque sono qualcosa che, a cui dobbiamo stare attenti, perché sono errori che tenderemo a ripetere in continuazione. Oppure non solo errori, ma anche cose belle e importanti e interessanti, ma questo ci arriveremo un po' dopo. In particolare Dick in cronache del dopo bomba approfondisce e in realtà narra un sacco di temi, ma uno tra questi molto importante è il rapporto tra religione e individuo. L'abbiamo un po' buttata là all'inizio, ecco, ci ritorniamo adesso. Di cosa parla, buttato lì proprio così in maniera bovina? Dopo un esperimento nucleare fallito, il mondo versa in condizioni bruttine, direi. Gran parte della popolazione è mutata, cioè appunto mutazioni genetiche, e qui di nuovo quindi il tema della trasformazione e dell'ibridazione. Non è un caso che ricorra in continuazione non soltanto nel cyberpunk, ma anche nella fantascienza più classica, diciamo. Alcuni dei sopravvissuti hanno trovato rifugio a Marin County, una zona rurale dove che si è costituita una sorta di comunità utopica. Probabilmente quello che aveva in testa Dick erano le comuni della controcultura americana di quel periodo, ma insomma diciamo che è anche un tentativo di Dick di immaginare una società utopica, e per una volta non distopica, in un mondo nuovo. E qui c'è la possibilità, c'è l'esplorazione dell'utopia, c'è il modo con cui ricominciare, e qua ci sono anche però entrano in gioco due personaggi principali. Dick c'aveva un pessimismo che non ci si poteva, cioè non gli si staccava di dosso, e c'erano due personaggi principali a cui viene attribuito un potere religioso. Perché è ovvio, e questa cosa non è che non la stiamo vivendo sulla nostra pelle, quando l'umanità si sente in difficoltà e spaesata e in crisi, si butta sulla religione. Questa religione può essere quella classica a cui siamo abituati, come per esempio la religione cattolica o altre, ma può essere anche dei meccanismi di religione, del ruolo religioso lo si può affidare non soltanto a questo tipo di religione, ma anche a altre religioni, come ad esempio mi hanno detto che era morto lo streaming, adesso forse è ripartito. È così, purtroppo. Non so assolutamente dove si è interrotto, quindi riparto un po' a casaccio, ma non temete, sto registrando, quindi il podcast perlomeno è salvo. Dicevo che stiamo vivendo, soprattutto in questo momento di crisi, ma come tutte le volte che c'è un momento appunto di crisi e di spaesamento dell'umanità, succede che ci si butta sulla religione. La religione, come dicevo, può essere non soltanto la religione classica come quella cattolica, ma anche altri tipi di religioni. Ad esempio, la scienza può essere vista, può essere investita di un ruolo religioso. Ci si aspetta che gli scienziati ci diano delle verità e ci facciano sentire meglio e ci guidino in qualche maniera. Oppure altri ruoli di questo tipo sono affidati alla tecnologia, e questo spesso, insomma, l'abbiamo visto. In Dick, in particolare, in Cronaca della Dopobomba, parlavamo di due personaggi che, a cui viene attribuito, per l'appunto, un potere religioso. Il primo è Walt Dangerfield, che è un po' quello che ha la parte positiva della questione. È un astronauta mandato su Marte, ma che a causa delle esplosioni atomiche è costretto a ruotare intorno alla Terra, intrappolato nella sua navicella. Un po' una sorta di Major Tom, per l'appunto, di Bowie. E quindi non a caso vive in cielo. E dallo spazio Dangerfield svolge un fondamentale ruolo di smistamento delle informazioni che gli arrivano dalle comunità di superstiti della Terra. E come lo fa? Attraverso la radio. Perché la radio, quasi sempre nei film e nei libri di fantascienza, è l'elemento, come dire, il faro nella nebbia, è quello che tiene l'umanità ancora unita, è quella attraverso cui si continua a comunicare. E non è un caso se Radio Wombat in questo momento ha scelto di potenziare questo strumento e cercare di rendersi più utile che poteva. Appunto, questo personaggio Dangerfield, attraverso la radio, appunto, condivide le informazioni, smista le informazioni ai superstiti, e non solo trasmette musica, ma infonde con la sua voce e le sue letture di classici della letteratura un certo senso di speranza all'intera umanità. Poi c'è un altro personaggio, Hoppy Harrington, che è un po' invece il cattivo, il personaggio negativo, che non a caso risorge un po' come un demone dalle viscere di un magazzino sotterraneo dopo l'attacco atomico. È focomelico, e dopo le sue esplosioni ha rafforzato enormemente le sue facoltà mentali. Allora, in realtà questi due personaggi non sono figure costruite sulla contrapposizione tipica bene male, non sarebbe, insomma, Dick non usava a fare così, aveva una scrittura molto più complessa di così, e specie la figura del cattivo non è completamente malvagio, ma anzi c'ha alcuni aspetti anche positivi, ma la sua è più che altro una degenerazione verso il male, che va di pari passo con l'accrescimento del potere. Più potere ha e più diventa cattivo. Ecco, giusto per schematizzare un po', ma per avere altri punti fermi. Bene, un'altra po' di musica, direi, e poi passiamo alla suggestione, al racconto in particolare di questa volta un cartone animato, ma non vi dico altro perché sennò poi vi rovino tutta la sorpresa, la suspense. E invece vi lascio nelle mani di Gargamella. Tempo sesio tundum, o virgine, todo condane, ne os juvene, todus floreo, iam amori virginali status ardeo, novus novus amores quam pereo, iam la vino. Yeah. dove sta andando? Abbandono il villaggio per il momento. È lei che ha incendiato la nostra casa, vero? Dica, con chi ha preso il robonoide, capitano? Si è fatto aiutare da Uro, vero? E non risponde neanche, è traditore! Ho capito, ragazzi, vi aiuterò, ma non ditelo a nessuno. Guarda chi c'è, la mia cara Monstri. Capitano, dove va? Io vado a fare un riposino. E chi era questo? Chissà, chissà se lo indovinate. Intanto che ci pensate, vi racconto un po' di cose che ci arrivano dal pod. In particolare un progetto che ci hanno segnalato alla mail del Wombat, ovvero Virus Project, che trovate al sito incadenzafilm.it / virus-project. Questo è l'urla un po' lunga, mi rendo conto, però insomma, magari quello da tenere presente è Incadenza Film. Poi magari vi scriverò l'indirizzo sul podcast, la puntata di oggi. E questo, si tratta di un progetto di autoproduzione visuale, ecco, visiva. Vi leggo al volo quello che è un po' l'abstract di questo progetto. Stiamo vivendo una situazione piena di paradossi e anomalie che ci obbliga a confrontarci con noi stessi, il nostro stile di vita, la società in cui viviamo. Spostamenti limitati, scuole chiuse, sospese le attività di qualsivoglia natura, non si incontrano amici né parenti, restate a casa, ci dicono. E così ci ritroviamo dentro un film distopico. E come in un libro di Orwell, la narrazione che prevale dai media è che siamo in una società di benessere nella quale, in uno stato di emergenza, il problema condiviso è cosa trovare da fare ora che i bar sono chiusi. La situazione, lo sappiamo, è ben più complessa e delle regole così restrittive come quelle previste dal decreto dell'11 marzo mal si conciliano con le sfaccettature della vita di ciascuno e ciascuna. Come vivi se non hai più un lavoro? Se lavori sei tutelato? La casa è davvero un posto sicuro? Come ti organizzi senza un computer per far seguire le lezioni ai tuoi figli? Come gestisci il poco spazio del tuo appartamento ora che è sempre pieno? Sono tanti problemi messi in evidenza dalla situazione che stiamo vivendo in queste settimane. Raccontaci il tuo. Se hai sviluppato delle pratiche di resistenza, condividi anche quelle. Virus Project nasce dall'idea di realizzare un film partecipato per mettere in luce diseguaglianze e pratiche di resistenza ai tempi del coronavirus. Non restiamo sole e soli, rompiamo l'isolamento, mandaci il tuo video. Quindi a questo indirizzo, che vi ricordo è incandenzafilm.it, ecco, potete mandare i vostri contributi video, che possono essere molteplici. Il sito è abbastanza chiaro e dà delle delucidazioni abbastanza precise sulle modalità di partecipazione, su come mandare i propri contributi, e si spera, insomma, che siano tanti e che ne venga fuori un racconto corale, anche video, di quello che è questa situazione in cui ci troviamo. Altra risorsa che vi voglio segnalare è l'ho scovata su un articolo di Internazionale, in particolare nel numero di ieri. Lo trovate, è un articolo che parla appunto di film gratis offerti da Open Culture. Poi anche di questo sul sito del Wombat vi metterò l'indirizzo preciso, in modo che possiate accederci sia all'articolo Internazionale sia a questo archivio. Open Culture è un archivio online che distribuisce e condivide gratuitamente moltissime risorse, non soltanto film, video, ma anche audio, spartiti musicali, audiolibri o libri in formato digitale. Insomma, ci sono corsi, tra l'altro, corsi di lingue e non solo, moltissime risorse, insomma. Il sito è openculture.com, e all'interno di questo sito trovate anche una sezione che raccoglie 1150 film liberi online. Sono grandissimi classici, ma non solo, anche film indipendenti, c'è veramente di tutto. Leggo al volo l'archivio dei film coreani, ci sono altri film invece russi, Farewell to Arms, Addio alle armi, film del 32, ve lo ricorderete, insomma ce ne sono moltissimi, A Star is Born, quindi grandi classici, ma anche invece raccolte più di film magari meno conosciuti, insomma ce ne sono veramente tantissime, anche film di Gondry, corti, direi veramente di tutto, quindi dateci un'occhiata e se vi annoiate e magari ci sta che ogni tanto vogliate prendervi una pausa dalla radio, strana perché insomma non mi... cioè non so perché dovreste farlo, però se ogni tanto magari volete anche guardarvi dei film vi è concesso e potete farlo magari attraverso questa risorsa importante. Bene, cioè vi ho dato un sacco di tempo per andare anche su Wikipedia, su Google a cercare, comunque ve lo dico io, la risposta era Conan, ragazzo del futuro, direi che siamo ai capisaldi proprio. Fra l'altro ringrazio Stampa Rassegnata che me l'ha fatto ricordare, e veramente sarebbe stato gravissimo non citare Conan ragazzo nel futuro di questi tempi. Devo confessarvi che Conan è ancora adesso, alla mia tenera età, una grossa fonte di ispirazione, imprescindibile e didattico. Quindi, cioè, bello, abbiamo parlato di Akira, il cyberpunk, tante cose importanti, ma Conan, ragazzo del futuro, per me comunque rimane un imprescindibile. E mi rifiuto di credere che chiunque sia cresciuto vedendolo possa essere diventato una brutta persona. Quindi io credo che o l'abbiamo visto in pochi o è stato trasmesso poco, non so che può essere successo, insomma, però evidentemente i malvagi non possono averlo visto, perché non si rimane le stesse persone brutte se si vede Conan ragazzo del futuro. Un anime televisivo di 26 episodi diretto da Hayao Miyazaki, con la collaborazione tra l'altro di Hayakawa e Takahata, che hanno insomma autori importantissimi che hanno dato vita a loro volta a tantissimi altri film bellissimi. Libro adattamento del romanzo Conan e il ragazzo del futuro, il titolo originale è The Incredible Tide di Alexander Key. Trama non ve la dico proprio tutta, però possiamo dire che nel mese di luglio precisamente dell'anno 2008, e quindi qua l'abbiamo scampata di un bel po', insomma direi che abbiamo scavallato, la razza umana sfiorò la completa estinzione. In pochi istanti le armi elettromagnetiche cancellarono più della metà degli esseri umani dalla faccia del pianeta. Il cataclisma causò uno spostamento traumatico della massa terrestre, i continenti finirono quasi interamente sommersi dalle acque. La storia si svolge negli anni 2028-2030 in un contesto post-apocalittico. Solo pochi sopravvissuti riuscirono per caso a salvarsi dalle ondate di marea, rimanendo isolati nei pochi territori emersi, eccetera, eccetera. La cosa importante e ovvia è che tutti dovettero abituare le abitudini urbane del passato e ricominciare da zero a sopravvivere di quello che la natura poteva offrire. I più organizzati fondarono, dopo un duro inizio, villaggi agricoli. I gruppi umani che invece non riuscirono a organizzarsi, regredirono invece a una vita di stenti. Dall'altra parte sta invece, sempre tra i modi con cui i sopravvissuti si sono organizzati in questo scenario, dall'altra parte sta la dispotica Industria. È l'unica città-stato ancora basata sulla tecnologia, in cui le persone sono divise in caste e la maggior parte della popolazione è sfruttata dai potenti. Industria è in realtà in netto declino e il reattore nucleare che alimenta gli impianti tecnologici si sta ormai esaurendo. In assenza di altre fonti di energia, alle città rimane poco tempo da vivere e la ricerca della chiave di accesso all'energia solare ha monopolizzato i pensieri della leadership di Industria. E poi non vi dico altro perché questa storia ve la dovete proprio vedere e gustare. È un piacere veramente dolcissimo che non vi voglio togliere. Si trova ovunque, pure su YouTube, quindi veramente siete facilitati. Il fatto che quando cerchi Conan, YouTube ti raccomandi poi Peppa Pig, lo considero un segno incoraggiante della rivincita dell'uomo sul malvagio algoritmo. Beh, ci manca giusto un quarto d'ora, sono direi abbastanza in tempo perché il contenuto di cui andrò a parlare non sarà in particolare un film o un libro, ma una serie di film, ma non vi anticipo altro e vi lascio con appena un brano musicale e poi ritorniamo subito in diretta. Sono stato sceso sulla terra in mezzo ai mortali per riparare i torti e trionfare la giustizia, ma essi sono così confusi. Nei loro cuori albergano i sentimenti più bassi tipo la paura, la viltà e la buciardia. Ognuno porta no acqua al suo mulino. È tutto magna magna. A volte il dubbio mi assale. Padre, che cosa debbo fare? Aniene, figlio mio, ti ho inviato sulla terra per un compito ben preciso. Dovrai vegliare sulle umane debolezze. Non ti è permesso interferire con gli umani. Ricordati, tu vieni da un universo molto più grosso. Sei stato forgiato dalla spada marrone. Devi aiutarli a seguire la loro strada, senza interferire. Quel martello che ti ho dato non serve certo a scacciaioni. Usilo con saggezza. Padre, messi sono così fragili, così inclini alle debolezze umane. Così? Inclini! Sono umani, questo è così, non è che puoi interferire. Padre, te sento o non te sento? Aniene, figlio mio, ricordati quello che ti ho detto prima. L'umanità soffre quello che è in definitiva un momento di crisi. Aiutali, istradali sulla strada. Ma ricordo, anche se cammini in mezzo a loro, non sei uno di loro. Ma chi sta a camminare? Non stavo a camminare! Adesso no, adesso stai fermo. Ma quando cammini, ricordalo, non sei uno di loro. Sei stato forgiato dalla stessa spada di prima. Aiutali a trovare la loro strada. Questo pianeta, da una parte, possono essere deboli, inclini alle debolezze del corpo, ma dentro a di essi c'è una grandezza come tutte le cose. Le cose e le persone sono come dei bambini, a volte magari hanno confusi, qualche volta sono anche imbriacati. Sono mortali, ricordalo, non campano gli anni di Pippo come noi altri. Ma io so che c'è del buono in loro. Aiutali, Aniene, aiutali con sto buono. Pure dentro a di essi brilla una scintilla divina. Radio Wombat è un po' così, te sento e non te sento, era ricaduto un attimo lo streaming, ma ci siamo subito rialzati, almeno così spero. In questo ultimo brano che abbiamo ascoltato era, oddio che cos'era, i Blackbird Rome Witches in particolare, ma mi sono accorta che non vi avevo neanche invece detto quello che abbiamo, quello prima ancora, che erano i Treni all'Alba, l'apocalisse dei Treni all'Alba, forse qualcuno l'avrà riconosciuta. Ebbene, l'ultima suggestione di questa sera, perché si avvicinano le 9 e tra poco arriva 8 Hertz, l'ultima suggestione è un insieme, ovvero sarebbe bello rimanere poetici, no? Con Conan, Akira, ancorati alle cose belle, ma non possiamo... Dobbiamo essere un po' realistici, non possiamo sottrarci alla valanga di materiale hollywoodiano che ci ha sommersi per decenni. In parte, varrebbe la pena chiederselo, le nostre reazioni di oggi in questo momento appunto di emergenza non sono così scevre da un certo quale condizionamento culturale grossolano ma continuo a cui veniamo esposti quotidianamente. Se ci pensate, ci siamo stupiti del si salvi chi può e dell'ognun per sé che abbiamo visto in questi giorni, almeno da una parte delle persone, eppure ce l'hanno insegnato per anni a fare così e forse questa non è che la raccolta di quella semina. E ci farebbe bene un po' chiederci quanto ne siamo immuni per davvero o quanto invece questo tipo di mentalità in fondo ci abbia un po' contaminato. E quindi i filmacci americani, tocca parlarne perché sono evidentemente preponderanti. Ecco, non ho voglia di citarne uno in particolare perché ce ne sono talmente tanti che poi oltretutto ma manco ve li voglio pubblicizzare, tanto li avete visti, no? Sapete di cosa parlo. Tutto quello schifo, quella monnezza che ci siamo visti tutti e tutte, che in parte poi ti fa anche crescere perché se non vedi cose brutte poi non apprezzi quelle belle, insomma. Però possiamo parlare un po' di alcune caratteristiche comuni, cliché comuni a tutte questi meravigliosi contenuti e questi meravigliosi film. Insomma, sono delle caratteristiche che tornano in continuazione su tutte, perché comunque una operazione culturale a tappeto di dominazione culturale deve essere fatta in maniera continuativa, quindi non è che ci può essere un film che esula o che dice qualcosa di diverso. No, ci sono certi cliché che devono tornare sempre. E quindi buttiamone lì alcuni. La famiglia, su tutto, difendere la famiglia, Questo è importantissimo. In ogni film catastrofico americano che si rispetti c'è un eroe, e salvo pinkwashing dell'ultima ora, è bianco, maschio ed etero, sarete d'accordo con me, il cui scopo contro ogni avversità è salvare la propria famiglia. E quindi che succede? Di fronte a un'emergenza, di fronte magari a milioni di morti, la mia famiglia. Cioè, non è che... cioè, il resto magari possono morire tutti, ma la mia famiglia deve rimanere viva. Famiglia che ovviamente è santa, sacra, perfetta, che non ha un neo, non ha un difetto, ma che comunque oltretutto è mia, mia e di nessun altro. E se la toccano faccio un casino. E brutalmente, peraltro, accostato a un presunto istinto animalesco, questo concetto che è tutt'altro che innato, però invece ci viene fatto da anni passare come naturale e per questo eterno, perché come sappiamo tutto ciò che è natura in qualche modo è intoccabile, almeno nella nostra cultura. Eppure fior fior di biologi, entomologi, etologi ci hanno insegnato che se ci si salva insieme, altrimenti si muore da soli in una cantina piena di viveri, come quel personaggio che abbiamo visto all'inizio di questa diretta nel libro di Mary Shelley. Questo era un punto. Poi c'è l'Occidente, gli Stati Uniti, ovvio, sono sempre al centro del mondo in una visione tolemaica, naif quanto irreale. Quindi questa è la cosa che salta più all'occhio, soprattutto a noi che non abitiamo negli Stati Uniti, cioè quando c'è una catastrofe comunque il fulcro della questione è sempre New York o qualche altro stato o qualche altro posto degli Stati Uniti. L'organizzazione però, perché non c'è solo una questione geografica meramente, ma anche di ottica proprio occidentale con cui si guarda la questione, per esempio l'organizzazione del salvataggio dell'umanità è sempre verticista e militarista. E lo sguardo è appunto è sempre quello occidentale, per cui le soluzioni sono sempre polarizzate. L'unico equilibrio possibile è la vincita di un polo e la sconfitta dell'altro. Quindi c'è chiaramente un pericolo che va sconfitto, c'è un male e un bene, non c'è adattamento, non ci sono equilibri possibili di mezzo, c'è soltanto un prevalere dell'uno o dell'altra parte. Questa è una visione ovviamente di un certo tipo che non può essere universale, ma di fatto si è affermata come se lo fosse. Altro punto è la ricostruzione. E qui devo dire, scusate, non è colpa solo degli americani. Generalmente quando si ha la possibilità di immaginare un mondo nuovo, fatto da capo, da cui ripartire, lo si immagina peggio di prima. E questo mi dispiace, ce lo dobbiamo dire, colpevolizziamoci noi per primi, perché non è che invece ci sono tutti questi esempi di letteratura dove invece si è fatto di meglio. No, effettivamente quando si andava a dire va bene, ok, allora ce l'abbiamo fatta, cioè ora si può ricominciare, niente, si finiva comunque male, come se poi alla fine quello che si vuole suggerire è che in fondo non c'è via d'uscita, perché tanto come la vedi, come la vai a far finire, in ogni caso poi si ritorna a come eravamo prima. E si incensano sempre le doti di preveggenza della fantascienza, eppure io temo che spesso un certo immaginario depresso e privo di fantasia, peraltro, abbia attinto al trito mondo reale, in realtà, per finire poi col confermarlo come l'unico possibile. Un po' Gattopardo style, che a me però il Gattopardo mi ha rotto coglioni, se ve la devo dire. Non è sempre così, ci sono alcuni impavidi sognatori, chiamiamoli così, che hanno il coraggio di lasciare andare un po' le briglie dell'immaginazione e per una volta magari creare mondi migliori di questo, perché si sa mai, se andasse per caso a finire bene, ci troveremmo probabilmente spiazzati senza la nostra confortevole distopia. Perché a quel punto magari ci toccherebbe vivere davvero come volevamo, quindi, ah, oddio, alla fine meglio la confortevole distopia dove un po' ci sentiamo rassicurati, dove sappiamo più o meno come muoverci, piuttosto che un mondo completamente diverso che sì, ce lo auguriamo, però poi invece in qualche modo è come se ci deprimessimo e tendessimo a ritornare sempre al vecchio mondo. E qui, per concludere questa diretta, perché siamo proprio in chiusura, vi butto lì un po' di esempi belli che secondo me vi possono un po' dare degli spunti e magari far ingranare delle rotelle nel cervello e magari spronarvi anche a immaginare dei mondi possibili. Mi viene in mente Margaret Kiljoy, che con i suoi racconti e romanzi ambientati, cioè praticamente, fra l'altro Margaret Kiljoy purtroppo non, in italiano si trovano poche cose sue, ma è abbastanza nota per aver scritto La guida steampunk all'apocalisse, uscita per Agenzia X. Prossimamente vi do così un'anteprima buttata lì, ne vedrete altre di cose sue tradotte, ma non vi dico di più perché voglio lasciarvi così nella suspense. E Margaret Kiljoy ha racconti e romanzi ambientati in futuri abitati da comunità variopinte autogestite, quindi si immagina un mondo con dei canoni diversi e che va avanti secondo modelli diversi da quelli che viviamo adesso. Oppure c'è anche China Mieville, che mi sento veramente di consigliarvi tantissimo, uno scrittore splendido che immagina dei mondi vividissimi, svincolati dalle leggi a cui siamo abituati, appunto anche lui, e su tutte quella che vi consiglio è la trilogia di New Crobson, che è veramente un mondo incredibile, variopinto e complessissimo, dove la realtà non è mai bianco o nera, ma c'ha moltissime sfumature ed è veramente uno di quei mondi in cui ti perdi ed è bellissimo e ti apre vari confini. Per ultime, ma non last but not least, vi cito anche la rivista Ruggine, rivista nata in seno alle comunità autogestite, che racconta nelle sue pagine scenari anche di questo tipo, appunto, dove l'apocalisse può cambiarci anche in meglio. Con questo direi che vi saluto e la programmazione di Radio Wombat continua, ve lo accennavo, prosegue con 8 Hertz, la puntata nuova di 8 Hertz, e dopo a seguire abbiamo una lettura per tenervi compagnia prima di andare a dormire, Racconti di quasi mezzanotte. E niente, con questo vi do la buonanotte ve la darà la lettura e ve la darà anche 8 Hertz. Io vi mando a cena e a fare le vostre cosette, vi lascio però in compagnia di un'ultima perla, dopo Guzzanti penso che insomma sia difficile, però spero di riuscire a mantenere il trend, ecco, il livello. Vi saluto e alla prossima, ciao ciao. L'altra notte ho fatto un sogno, bum, bum, bum, così presente da sembrare realtà, bum, bum, bum. Mi trovavo in un altro mondo, bum, bum, bum, ma in questo mondo c'era la mia città. E in questo mondo che sembrava vero incontravo la gente che conosco già. Andavo per strada e mi sentivo leggero, sicuro e spedito era la mia città. Ma un tratto m'accorsi, curiosando un po', che quello era soltanto un sogno. Non poteva essere vero quel che vidi là, non poteva essere la mia città. Il traffico intenso era lo stesso peggio, gli ingorghi d'automobili e nemmeno un parcheggio, i vigili urbani che insultavano ogni ora e chi protestava lo multavano ancora. Ma no, no, no, e non va, non va, non è la verità. Tutto era simile da sembrar vero, ma vero non era, perché nel sogno i vigili lì erano stronzi e bastardi, stupidi ottusi con i ghigni beffardi. I vigili lì erano stronzi e bastardi, non come qui che sono buoni gagliardi. Un vigile urbano mi bloccava la via, mentre un altro sfoderava una totale idiozia. Vedendomi lì fermo fece il tono grosso e disse: ti muto perché adesso è rosso, oppure perché è verde, perché è giallo o blu. Il tuo destino è già segnato. Tu vieni senza storia alla centrale con noi, che siamo la stradale, gli eroi.